Hi, it's Mike from Perfume Genius, and you're listening to Radio Kairos. Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Might FM. Chi vi parla, come sempre, Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos in via Casarini in questo fine maggio, inizio giugno molto afoso, e quindi, come abbiamo scritto, è con un po' di affanno che ci apprestiamo a fare praticamente l'ultima trasmissione in studio per questa stagione, e lo dedichiamo ad uno dei nostri beniamini che molte volte ha fatto la sua comparsa qui a Might FM in diverse situazioni, ma a cui non abbiamo mai dedicato una delle nostre monografie. Siamo molto contenti di poterlo fare con questo nuovo album. Parliamo di Perfume Genius, l'alias, l'alter ego, il progetto musicale di Mike Hedrias, che abbiamo potuto vedere dal vivo un paio di volte qui a Bologna e anche parlarci ed anche abbracciarlo, perché è una persona veramente preziosa ed un artista veramente unico. No Shape è appena uscito dal 5 maggio e ascoltiamo come sempre il pezzo di apertura che si chiama Other Side. Per chi conosce l'opera di Perfume Genius riconoscerà che quasi tutti i suoi dischi iniziano con questo suono, la sua voce e il pianoforte. Ma è questa esplosione che segna l'evoluzione e la differenza di questo disco rispetto al passato. Un'esplosione che è stata paragonata poi ai suoni di MAT3. Di questo pezzo Mike dice: quando abbiamo registrato questa canzone avevamo lo studio allestito come una chiesa. Abbiamo messo linee di sedie, file di sedie, dove tutte le persone erano sedute di fronte ad un microfono e cantavano, tutti nello studio cantavano. E questo pezzo sembra appunto come un inno religioso, una cosa che lui ha sempre avvertito come degli incantesimi cantati, ma da cui comunque si sentiva escluso. Perché dice: senza che nessuno me l'avesse ancora detto, sapevo che io ero destinato all'inferno invece che al paradiso, mentre poi ho capito che la grazia non è qualcosa che si deve conquistare, la grazia è sempre lì. E trovo questa cosa molto più divertente. Other Side, pezzo di apertura di No Shape, uscito sempre per la Matador Records, casa discografica da sempre di Perfume Genius, fin dall'esordio nel 2010 con un album che si fece subito notare e di cui adesso ascoltiamo un compendio delle tre canzoni, insomma, più significative, forse Learning, la title track, Look Out, Look Out e Mr. Peterson. Tomorrow. Mike, nato nei sobborghi di Seattle, studia pianoforte da bambino, studia pittura alle superiori. La sua omosessualità è consapevole ed evidente fin dalla giovane età, 15 anni. Comincia a ricevere lettere, minacce di morte alle superiori nell'indifferenza totale dell'istituzione scolastica, tanto che l'ultimo anno di superiori lui molla la scuola e decide di andare a New York per diventare un pittore. E come arriva a New York si perde nella vita notturna facendo il lavorando alla porta di un locale dell'East Village e entrando insomma in un uso abituale di sostanze, alcolista, tossicodipendente. Dopo qualche anno decide di tornare a casa della madre, e nella proverbiale cameretta comincia a comporre delle canzoni. Era intorno al 2005, nel 2007 già si trovano tracce in rete dei suoi pezzi. E questa infatti è Mr. Peterson, che poi verrà pubblicata nel primo disco, diciamo il pezzo più significativo che viene più spesso citato. È il primo pezzo di Perfume Genius che noi abbiamo mai programmato qui a Mighty FM nella puntata dedicata a John Grant. Ma appunto crea un profilo MySpace, sceglie questo alias, Perfume Genius. Lui dice: l'ho scelto un po' a caso, è stata un'espressione, un commento ad un filmaccio che io guardavo con una mia amica. Lei ha cominciato a commentare il personaggio, dice: ah, guardalo questo genio del profumo, chissà cosa fa adesso. Però non sappiamo di che film si trattasse, quindi non sappiamo quanto fosse adatta l'espressione. Lui sceglie questo nome per la sua pagina MySpace, comincia a pubblicare la sua musica e viene notato dalla Matador, che gli fa subito un contratto. Queste storie di dolore, di racconto, di traumi subiti, di pensieri suicidi, di depressione. E quindi un debutto che sicuramente si è fatto notare e che noi stessi appunto abbiamo subito abbracciato, in un certo senso, per il suo candore e per l'intensità delle sue composizioni, all'inizio così semplice, che poi hanno visto appunto un'evoluzione progressiva. E infatti passiamo al 2012 con il secondo disco, la strumentazione aumenta, forse c'è anche un po' più di, non lo so, un po' di luce in fondo al tunnel, anche se sono ancora pezzi confessionali che raccontano di dei traumi, non ultimo anche il fatto che 2 anni dopo aver lasciato la scuola subì un'aggressione omofoba, picchiato per strada da un gruppo, un proverbiale gay bashing. Anche questo, il video di questo pezzo, Take Me Home, infatti c'è lui che si rialza da terra e poi molto orgogliosamente, con una maglia molto lunga da football player ma delle scarpe con i tacchi rosa, cammina in mezzo alla strada per ritornare a casa. Be like a shadow of a shadow of a shadow. E da questo secondo disco del 2012, Put Your Back Into It, stiamo ascoltando appunto Take Me Home, poi Dark Parts, poi Hood, il pezzo che l'ha fatto conoscere più al grande pubblico, soprattutto grazie ad un video in cui lui sta in braccio a Arpad Miklos, una delle più famose gay porn star, poi un anno dopo anche lui suicidatosi per depressione. E poi anche un altro pezzo, Florence Pitt, eccola, Hood. If you knew me true, Recensione che già dice che l'evoluzione musicale, la presa di coscienza, la sicurezza nei propri mezzi, sia come cantante che come autore, si sente per esempio dall'ingresso di questa full band in questo pezzo, che è stato addirittura censurato da YouTube perché non adatto alla visione per le famiglie. E questo pezzo, Floating Spit, mi ricorda un'altra canzone che ha Spit nel titolo, ovvero Lover's Spit dei Broken Social Scene, per i suoni, anche per la voce, non so come si dice tecnicamente, muffled. E finisce appunto questo compendio dedicato al secondo album di Perfume Genius, ma noi stiamo parlando di No Shape, che è stato anticipato il 21 marzo da questo bellissimo pezzo, mai stato un pezzo così pop, così brillante, così gioioso, forse, come Slip Away. Carried by the sound. Ancora questa esplosione di suono e la presenza strisciante, che è stata rilevata spesso della presenza dello spirito di Kate Bush, che aleggia in tutto questo disco, per un video a regia di Andrew Thomas Wang, famoso per le sue collaborazioni con Bjork. Della serie, non ci curiamo degli altri, di chi può essere contro di noi, una canzone di gioia, ma anche una canzone di protesta. Una canzone che parla appunto dell'amore, che magari altre persone possono dirti che non è naturale o che è deviato, ma invece è molto puro e molto sincero. Love, they'll never break the shape we take. non spezzeranno mai, non romperanno mai la forma che noi prendiamo per un disco che invece non ha forma. Varietà di stili musicali, di generi, di riferimenti e anche un desiderio espresso in un pezzo in particolare che ascolteremo dopo di non avere più la forma fisica, in quanto Mike ha sempre un po' di problemi col suo essere corporale, che vede un po' come una limitazione le sue possibilità, le cose che potrebbe fare. Insomma, con la popolarità, tra virgolette, anche all'interno del mondo dei musicisti iniziano le prime collaborazioni e i primi duetti. Non sono molti, a noi li abbiamo appunto selezionati perché sì, i pochi che sono rilevanti, perché fatti con artisti che noi amiamo allo stesso modo di Perfume Genius. Stiamo parlando in questo caso di Kat Le Bon, nel suo album del 2013 Mag Museum, il pezzo è I Think I Knew. Scelta del nome, Mike dice che appunto non ha scelto pensandoci tanto sopra, doveva riempire il modulo di MySpace per aprire la sua pagina, ha scelto questo nome, sebbene dice che gli piacciono insomma queste parole, il suono che le parole fanno insieme, Perfume Genius, anche se pensa che insomma la parola genius magari l'avrebbe pure fatta a meno e che molti dei suoi fan lo odiano questo nome. Però dall'altra parte dice forse se ci avessi pensato tanto magari avrei scelto qualcosa di troppo pretenzioso, comunque di peggiore. E dicevamo appunto come la sua musica venga notata grazie a MySpace, messo sotto contratto dalla Matador, e quindi cosa si chiede? Che si esibisca anche dal vivo, e nel momento in cui stava per uscire il disco, insomma, si prospettava l'uscita di Learning, che poi è uscito nel 2010. Nel 2009 Mike ha una ricaduta, insomma, ricomincia a bere o a drogarsi, e un amico decide che forse lo avrebbe aiutato poter passare del tempo in compagnia di un proprio amico, ovvero Alan Whiffles. Si conoscono, si frequentano ed è a lui che Mike chiede aiuto, essendo Alan un musicista con un di studi classici di conservatorio musicali, gli chiede aiuto appunto nella prospettiva di doversi esibire live e quindi di trasformare le proprie canzoni per l'esibizione appunto dal vivo. La storia è che si innamorano immediatamente, ma non se lo dicono, anche perché l'approccio con l'intimità, le relazioni interpersonali sono un po' più complicate quando si vive delle storie, situazioni di dipendenza. Alan ne era appena uscito, lo porta agli incontri degli alcolisti anonimi, all'inizio muto, silenzioso, quasi assente, fino a poi diventare invece un moderatore degli incontri, Mike. Ma appunto stiamo parlando del suo ultimo lavoro, uscito il 5 maggio. E questa si chiama Just Like Love. L'ispirazione per questo pezzo viene dal fatto che Mike una volta ha visto un video su Facebook di un ragazzino che, diciamo, passeggiava, sfilava, sculettava dentro casa in un vestito fatto su con una serie di coperte, e ha rivisto se stesso in questo ragazzo e voleva appunto scrivere una canzone per dire quanto è meraviglioso, quanto appunto non si deve vergognare di quello che è, quando lui stesso appunto molte volte gli hanno fatto pesare non tanto il fatto di essere omosessuale quanto il fatto di essere molto molto effeminato, consigliandogli un po' di smorzare questo lato della sua personalità anche per avere un po' più successo, cosa che lui non ha mai assolutamente fatto, anzi ci ha fatto anche un disco sopra, il terzo, Too Bright. Questo ragazzino, anzi di tipo di 7 anni, e appunto la canzone, lui dice: vorrei dirgli quanto è divino, il modo in cui cammina è proprio come l'amore. Appunto anche da questo pezzo si possono sentire i vari stili musicali che non danno una forma univoca, appunto, e l'inizio del pezzo Just Like Love è stato sempre paragonato, insomma, in molti articoli che ho letto a questo pezzo famosissimo di Enya, Orinoco Flow, detta anche Sail Away, e abbiamo voluto mettercelo. Tratto da Watermark del 1988, dopo appunto Enya è stata poi molto presa in giro, insomma, come per queste sue canzoni un po' considerate delle nenie insopportabili, anche grazie a South Park, mi pare. E è curioso vedere come appunto i riferimenti sonori che ascolteremo anche in questa puntata sono tutti degli anni 80, ma negli anni 80 non quelli classici che noi magari intendiamo, del pop, del synth pop, ma cose un po' più particolari, magari. E questo anche grazie alla produzione del disco di Blake Mills, musicista giovanissimo, ha lavorato con Laura Marling, con John Legend, con gli Alabama Shakes, ed è a lui che si dice si debba questo suono così vivace. Viene usato spesso il termine Technicolor. Thank you. ma contrariamente ad altre volte vogliamo usare anche le canzoni ospiti, che appunto servono di corredo al personaggio, all'artista, al lavoro di cui stiamo parlando, per appunto leggere un po' delle recensioni invece di arrivare sempre alla fine, per un disco che secondo la nostra fonte Metacritic ha raggiunto una Universal Acclaim 85 8.5, sebbene appunto non abbia mai visto in recensione dei dischi di cui abbiamo parlato dei 10, e ce ne sono addirittura 3 per questo disco, partendo da Clash, che gli dà 7 e parla di soulful elettronica, quindi piena di soul, piena di sentimento. Poi anche Rolling Stone 7, Pop Matters, che dice che il disco è giocosamente elusivo, appunto per questa forma sfuggente, più luminoso e gioioso dell'album precedente Too Bright, imperfetto, affascinante. No Shape espande e sfida ogni confine preconcetto del progetto Perfume Genius, anche questo un 7. Poi Record Collector, Perfume Genius, The Learning, il primo disco, e quello di No Shape, questo, sono come i Beatles di Amburgo o quelli dell'LSD, quindi insomma completamente lontani sia nel tempo che nello stile. No Shape è lavoro frattale che esplode in schegge di rumore grandioso e meraviglia multistrumentale, come già abbiamo potuto sentire in Other Side e Slip Away. Appunto l'abbiamo nominato Too Bright, e soprattutto questo pezzo, che è diventato pezzo dell'anno, forse del decennio, letto anche, ovvero Queen, questo inno di rivolta. Al grido di nessuna famiglia al sicuro, quando io passo sculettando. Too Bright è l'espressione della rabbia dopo due album passati ad elaborare il trauma, a cercare di superare pensieri suicidi, tutte le violenze subite, i traumi degli abusi sessuali, della violenza di vario tipo. Alla fine arriva Too Bright, che invece è quando la rabbia esplode, perché non è più una richiesta umile, quasi una preghiera di accettazione, ma l'esigere il rispetto. E di questo disco ascoltiamo sempre 3 pezzi, c'è un più famosi, i 3 singoli, i 3 video. Dopo Queen, questo è Fool. Diciamo un po' una canzone un po' anche arrabbiata nei confronti delle fegeg, no? Delle donne eterosessuali che si attorniano di amici gay. Infatti questo dice: prendo il vestito che ti ho preparato, lo metto sul divano che tu hai comprato ma che ho scelto io, e poi silenziosamente tolgo il disturbo. E questo disco, Too Bright, del 2014, vede prima di tutto la presenza per la prima volta di un produttore, Adrian Atley, il terzo membro dei Portishead. Siamo arrivati a Greed, forse il pezzo più sperimentale, stridente, per un'evoluzione che, appunto, dicevo, prima il produttore, poi sempre l'espansione del suono. Il suono diventa sempre più spesso, la strumentazione più elaborata, il senso di avventura, tipo di scrittura, e soprattutto la sicurezza nei propri mezzi di cantante e di autore e arrangiatore. e anche una maggior visibilità anche proprio della sua persona. Già per il secondo disco, per esempio, in un video come Dark Parts, lui esegue una routine, una danza, una coreografia insieme ai membri della sua famiglia. Nel video c'è Alan, c'è sua mamma, Carmen, amatissima. Ma in questi, nei tre video, Fool, Queen e Grid, lui è molto presente come, come ballerino, come attore. E soprattutto la sua immagine è sempre più glamour. Per esempio il video di Fool era una collaborazione con Urban Outfitters, quindi anche il mondo della moda lo vede come un personaggio molto interessante, appunto per il suo essere fuori dai generi nel adottare abbigliamento maschile e femminile. Rossetto, smalto, tacchi alti, ma per una nuova immagine di queer del XXI secolo. E sebbene lui dica sempre quanto si trova a disagio col proprio corpo e quanto gli faccia schifo praticamente il proprio corpo, il suo aspetto, e non si fa problemi, o forse è proprio questo l'esorcismo di metterlo in vista, come magari degli attori che mettono in scena il personaggio idealizzato che vorrebbero essere. È un pezzo così un po' crudo come Grid, l'abbiamo voluto accostare a un altro pezzo abbastanza oscuro, cupo, avrete già riconosciuto, è To Bring You My Love di PJ Harvey, title track dell'omonimo disco del 95. E questo perché ho trovato, a parte diverse dichiarazioni, ma anche un video di un paio d'anni fa in cui Mike dice quali sono i dischi della propria vita, e al primo posto c'è appunto To Bring You My Love, soprattutto per questo tema della religione. Quante volte viene nominato Jesus nei testi di questo disco, ma anche il diavolo, una cosa di cui lui ha sempre avuto terrore da bambino, e quindi affascinato dalla disinvoltura con cui PJ, anche questo disco, parla al diavolo, ai diavoli, ci passa del tempo. Climbed over mountains, travel the sea, cast down of heaven, cast down. E andiamo avanti appunto a leggere quello che la critica specializzata ha detto di questo No Shape. Volontà di riformare il suo alter ego in continuazione, cosa che lo mantiene vitale. Infatti c'è uno sviluppo progressivo sia nei temi che appunto nella sicurezza, nel volume, nella strumentazione, nella complessità, nel lato sperimentale appunto dei pezzi e degli arrangiamenti, soprattutto la continua sorpresa anche parte dei suoi fan, insomma, lasciando un po' sempre sorpresi, sentire sempre qualcosa di nuovo. Poi Under the Radar 8, ogni sensazione di appagamento e felicità ha un costo emotivo enorme che lascia il segno, ma ora per Film Genius non cerca la bellezza nella sofferenza ma la vitalità a dispetto di essa, per un disco dinamico. Infatti il tema che è annunciato dal pezzo di apertura del disco è Other Side, cioè abbiamo superato i problemi, abbiamo superato le sofferenze, ci troviamo dall'altra parte, ma non è solo rose e fiori, non è solo una bella favola, c'è sempre il lato oscuro. Lui dice in tante interviste, apparentemente va tutto bene, ha una vita, una carriera, un fidanzato, che poi appunto quando è esploso l'amore Alan Whiffels, non solo appunto il suo principale collaboratore musicale, ma il suo compagno da 8 anni. Eppure c'è sempre qualcosa che lo inquieta, che lo mette a disagio. E passiamo a un altro pezzo di questo, No Shape, che è Go Ahead, è il secondo singolo, ma non il secondo video, perché invece di video l'ha fatto per un altro pezzo. Questo è un pezzo che viene continuamente paragonato a una delle influenze rintracciabili, quasi una per pezzo, e questo è Prince. Don't remember asking. What you mean? Baby, take a seat. Now watch me. Watch me walk on by. Honestly, next one won't be free. Questa è una canzone di sfida in cui dice: sì, io dico a tutti quanti in questa canzone che possono provarci a rompermi le scatole, ad aggredirmi, a dirmi qualcosa. E che possono anche pregare per me, ma io sono già con Dio. Ma senza mai alzare la voce, perché è molto più figo, molto più cool essere così, insomma, un po' indifferente, no, agli attacchi. È una delle canzoni preferite di Mike. Infatti dice: sì sì, di pure una preghiera per me, ma tanto già sto camminando nella luce. Ti dice: dai, provaci, vai pure. E riguardo a questo riferimento di Prince, la press release che ha accompagnato l'uscita di questo disco, ha scritto da un'altra persona, adesso non vi ricordo chi era, dice che appunto c'è una presenza divina, una musica da chiesa, però appunto alla maniera del Black Album di Prince, cioè troppo sporca. E siamo arrivate al 2015. Questo bellissimo pezzo, Jonathan. Through darkest night, can you handle darkest night? Pubblicato nell'ottobre 2015, poi incluso nell'edizione britannica di Chalet Rumain, l'album di Christine and the Queens, quindi un duetto tra Christine and the Queens e Perfume Jeans. Give it. questo pezzo e anche il video. Andiamo avanti. Uncut 8, creatività sguinzagliata, che partendo da Too Bright, appunto l'album della rabbia, si espande in ogni direzione contemporaneamente. Sottotesto queer, la fonte di gran parte del potere del suo lavoro. Poi Mojo, anche 8, però esiste solo la versione cartacea. Per New York Times, ambizione ed eccentricità più vaste che mai, la musica di Perfume Genius è all'altezza di entrambe, amore e morte, corpo e spirito, sovraccarico e austerità, propulsione e meditazione, desiderio e rinuncia, paura e forza, gioia e malinconia, esistenza e oblio. 8 sempre. E dopo questa bellissima Jonathan, contenuta nell'album di Christine and the Queens, che è del 2014, ma poi appunto è stato rieditato diverse volte in America e in Inghilterra, dopo che appunto è diventata più conosciuta, questo pezzo è sempre No Shape, si chiama Valley, spesso trovato in recensioni dove viene chiamato Valley General, forse appunto dopo il titolo è stato accorciato. Payphone on record, mission I still want to give in. I don't understand if you need. How long must we live right before we don't even have to try? From your daughter drawing of three flowers, I still keep it with me. E anche questa sembra una ballata gentile e parla del fatto che un giorno per strada gli è sembrato di aver visto una donna, Michelle, cui si era avvicinato molto durante insomma la disintossicazione, gli incontri eccetera eccetera, e pensa di averla vista che era tutta arrabbiata, agitata, davanti a una cabina telefonica, un telefono pubblico, e quindi appunto si capiva che era in quelle situazioni un po' fuori di testa, che probabilmente era ricaduta nella dipendenza. E il ritornello dice: ma per quanto tempo dobbiamo vivere nel modo giusto prima che ci venga naturale, prima che non sia necessario sforzarsi? E lui dice: io ti capisco, capisco come puoi aver cominciato a drogarti, a bere, perché anch'io ancora sento questo desiderio di gettare la spugna. Il biglietto di tua figlia, il disegno con i tre fiori, lo tengo ancora con me, vuole ancora cantare. Collaborazioni, progetti, al di là dei bellissimi 3 più 1, 4 dischi di Perfume Genius, è questo pezzo. È una cover The Grateful Dead contenuta nel doppio triplo CD, 59 pezzi. Progetto organizzato dai fratelli Dresner, The National, sempre per la Red Hot Organization, si chiama Day of the Dead, appunto un tributo ai Grateful Dead, e questa qui è una cover. Del pezzo To Lay Me Down dell'81, mi pare. Ma non c'è solo Mike, non c'è solo Perfume Genius in questo pezzo, c'è anche Sharon Van Etten and Friends. Friends significa, insomma, la house band praticamente, altri quattro national, anche il bassista e il batterista, insomma le due coppie di fratelli e anche qualcun altro. Questa bellissima, lei mi dà. Molto bello, reso unico dalla voce particolarissima che, come ho letto, appunto riesce a comunicare l'emozione desiderata con grande facilità. Continuiamo con le recensioni. The Guardian, 8. Dopo un'adolescenza di sofferenza, una giovinezza di abusi e dipendenza, oggi Mike Andrews è sobrio e sistemato verso il mainstream, modello per Gucci. No, in realtà ho sbagliato, lui indossa degli abiti di Gucci per un servizio fotografico per la rivista W. Musica per Prada, l'ascolteremo più in là. Dono per la melodia che usa per farti mandar giù i testi più tremendi. Riferimento è Talk Talk di Spirito Viden dell'88 e l'ascolteremo. Bellezza spettrale e bruttezza dirompente. Anche se il territorio emotivo è più positivo, tutto è permeato da ansia e neurosi, ma anche da una sicurezza potente. No Shape, talento unico, giunto alla piena maturazione, sbocciato pienamente. E arriviamo alla quasi title track del disco, ovvero Wrath, il pezzo che richiama di più alla mente l'influenza di Kate Bush, che è quasi title track perché contiene l'espressione no shape, questo desiderio di perdere la forma corporea. D'altra parte anche il profumo non ha una forma corporea. Si chiama Breath, che è la corona, diciamo, funebre, la corona di fiori. E poi c'è proprio una citazione diretta, Running Up That Hill, pezzo famosissimo di Kate Bush che abbiamo sentito più di una volta qui in trasmissione. Ora mi sono dimenticata di dire che appunto Slip Away, il primo singolo, è stato, diciamo, il punto di svolta. Prima di allora stava scrivendo dei pezzi della musica sempre in questa vena molto scura come Too Bright, invece poi a un certo punto ha avuto questa illuminazione e niente di quello che ha scritto prima è poi entrato nell'album e ha preferito appunto un tono più gioioso, più di vittoria, trionfante. Di questo pezzo dice: non sono un grande fan del mio corpo e mi piacerebbe lasciarlo, non morire, ma mantenere tutti i miei pensieri ma essere libero del mio corpo. E appunto poi c'è la menzione della morbo di Crohn, di cui soffre, che è una infiammazione cronica degli intestini, e anche il fatto che questo è stato peggiorato da anni di sregolatezze, di junk food. E invecchiando appunto lui sente che il corpo lo tradisce sempre di più. Voglio aleggiare senza forma, voglio sentire i giorni che passano, non che si accatastano l'uno sopra l'altro. Si fa anche riferimento alla fine di questo pezzo, un riferimento molto preciso ai Cocteau Twins, soprattutto il pezzo Caroline's Finger. Invece io ho ravvisato una grande somiglianza invece con un pezzo che ascolteremo tra poco, invece con This Mortal Coil. Progetto a cui comunque partecipavano membri dei Cocteau Twins. Finisce Wrath, e tornando ai testi scritti per il comunicato stampa all'uscita di No Shape, dopo il riferimento al Black Album di Prince, si dice anche che appunto oltre ad essere musica da chiesa è anche femme art pop alla maniera di The Dreaming di Kate Bush, cioè troppo spaventoso. Ed è questa The Dreaming dall'album omonimo dell'82, e visto che qui a Might FM avevamo già sentito sia Running Up The Hill che Cloud Busting che Babushka, non considerandoli comunque adatti, sebbene ci fosse la citazione della frase Running Up The Hill sul pezzo che abbiamo appena sentito, ascoltando il disco di grande successo di Kate Bush ho sentito The Dreaming molto prima di leggere questa frase che invece ho letto oggi, e l'ho scelta. Mi sembrava molto più simile al tono sperimentale del disco di cui stiamo parlando oggi, No Shape, Perfume Genius. Pushing from the pull of the bush. You'll find them in the row. See the light bulbs of the roots. In the row. Come in with the golden light. In the morning. Come in with the golden light. With no warning. Come in with the golden light. We bring in. Poi Exclaim, testata canadese, sempre 8, evoluzione soprattutto musicale, forse verso il pop, ma sono tutti mezzi per esaltare la bravura di Mike Edwards che brilla come un diamante. Spin, dice chamber pop, una unione di intimità e audio fidelity. Too Bright era tutto glitter e synth, paragone con la colonna sonora di Labyrinth. Lui stesso appunto, come se avesse potuto immaginare il disco dal punto di vista visuale, si è riferito sia a Labyrinth che al film The Legend, mi pare, di Ridley Scott. La libertà, ovvero osare di essere felici davanti al pericolo. Anche The Observer, 8. From the pull of the bush. Drowned in Sound. 8, la cosa in comune in tutti gli album di Perfume Genius è la loro natura di crudo confessionale, la volontà di mostrare i propri demoni e la queerness senza giustificazioni, unapologetic. Molti stili, non è un album con un suono unico, e io dico, beh vabbè, si chiamano Shape. Q-Mag, 8, dichiarazione di sfida, forza e sfrontata bellezza. E spesso viene detto di come una prima parte del disco così trionfale, così carica di suoni, dia poi luogo ad una seconda metà dove appunto l'inquietudine che sempre permea questa nuova raggiunta stabilità quasi non ti sembra vero, no? Che va tutto bene, che hai superato il peggio. E viene questo rappresentato da due pezzi che abbiamo voluto unire insieme, Every Night e Choir. Every night, nothing has moved for some già da un po' che niente si muove. Per un pezzo che dà voce alle sue inquietudini, alle sue paure più radicate e più longeve. Dice, a volte sento un'energia o penso di sentire un'energia la cui vera forma non si rivela, come una presenza. È una cosa molto drammatica, lo so, fantasmi, magia, altre dimensioni. Insomma, Mike sente questa presenza come se appunto galleggiasse vicino a lui. Cioè, non sono tanto sicuro di come spiegare questa cosa, ma in questa canzone io chiedo a questa essenza di mostrarsi. Anche per un senso di empatia, mi dice, quando vedo dei film di fantascienza dove ci sono gli alieni, io non ho paura degli alieni, io vorrei essere l'alieno. Per chi conosce This Mortal Coil, Blood di This Mortal Coil, sentirà la similitudine del suono, la tensione di questi archi. Di questo pezzo Mike dice, che poi oltre insomma all'aspetto divino anche dell'esistenza, la grazia, c'è una uguale quantità di fatica esistenziale, di tragedia, dipende dai giorni. Sì, io penso che sono abbastanza tendente al melodramma. è quasi come fosse il seguito di Every Night. Quasi questa canzone è il seguito, perché dice come se appunto la cosa che tu chiedi di mostrarsi e di rivelarsi alla fine si rivela e tu capisci che non c'è niente. E questi due pezzi così, insomma, notturni, quasi incorporei, abbiamo voluto affiancargli Anony, a nonna nostra, ex Anthony and the Johnsons, dall'ultimo EP Paradise pubblicato il 17 marzo. Ascoltiamo questo pezzo, appunto, molto disembodied, senza corpo, che infatti si intitola In My Dream. E l'abbiamo scelto sia per la queerness, ovviamente, sia per la femminilità che non ha mai voluto nascondere, tanto da abbracciarla come identità definitiva, e anche l'evoluzione della ricerca musicale, sempre più sperimentale. Leggendo Music OMH 8, a pagamento raggiunto, personale musicale, il peggio è passato, ma è ancora in agguato, un battito di distanza. Dischi precedenti, un processo catartico, poi c'è riferimento sempre a Prince, specialmente appunto al pezzo Go Ahead, l'album della cauta contentezza dopo quelli della paura e della rabbia, ma ci aspettiamo che sia poi appunto una progressione, sia solo una tappa dopo il raggiungimento di questo traguardo. Tanto è vero che appunto in un articolo, in un servizio molto molto approfondito che ho letto riguardo alla sua idilliaca vita domestica, la casetta in un posto poi di provincia, Tacoma, nello stato di Washington, già appunto raggiunta questa calma, questa routine quotidiana, già stanno pensando di trasferirsi a Los Angeles. E qui arriva un altro highlight, come si dice, del disco Die For You, di cui appunto il 9 maggio è stato pubblicato un video, dove il riferimento vocale sonoro è assolutamente a Sade. Abbiamo scritto nella scheda di presentazione la gioia, diciamo, insomma, dell'appagamento, dell'aver superato, insomma, in un certo qual modo i traumi, di aver ritrovato una certa normalità, è sempre un po' tinta di inquietudine, almeno nell'immaginario. Per questo appunto questa canzone Die For You usa la metafora dell'asfissia, del, diciamo, la fantasia sessuale, pratica sessuale dell'asfissia per aumentare il piacere sessuale, in cui appunto lui metaforicamente la usa per simboleggiare proprio l'abbandono totale, darsi completamente, quasi appunto fino alla morte, alla persona che si ama. appunto nel video è sempre più presente, appunto, la presenza fisica di Mike, molto sexy, anche se appunto per lui il fatto di essere sexy odiando il suo corpo, ma è come se appunto si acquisisse un'altra personalità, no? Quella ideale, come succede per molti anche drag queen, anche quando fanno i loro balli, le loro sfilate, proiettare un'immagine ideale di sé. E Mike ci riesce benissimo, anche per il fatto di avere accesso anche a degli abiti, a delle mise fantastiche. E come abbiamo nominato Sade, non potevamo non metterla in scaletta con la bellissima Jezebel da Promise del 1985, in cui io ai tempi comprai l'LP oltre che il maxi single di Smooth Operator, Sade. Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth. She probably had less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a bell. Our Music 8, il trauma e il suo potere trasformativo sono sempre state al cuore della musica di Perfume Genius. Learning era la lotta per superare il dolore. Too Bright, la rabbia che emerge in superficie. Mentre No Shape vede Hadrias andare verso l'accettazione, permettendo alla sua musica di crescere e fiorire. Una mossa audace come quella di Too Bright, ma quest'album è più incandescente della rabbia fusa del disco precedente. Arrangiamenti Technicolor di Blake Mills, suoni diversi tra loro che riflettono il bisogno di cambiamento dopo il dolore, la guarigione. La musica è cresciuta senza perdere la capacità di empatia con l'ascoltatore. Los Angeles Times 8, album mozzafiato che trasmette uno spettro così ampio di emozioni che non sai se lanciargli petali di rosa, offrirgli un cocktail o caricarlo su una barella. Tiny Mixtapes 8, paragone con Lynch, strani intermezzi dentro strutture convenzionali, spirito ludico in mezzo a estrema inquietudine, lotta psichica tra autodistruzione e autoconservazione, logica onirica e una fede sincera, sebbene esagerata e camp, nelle fantasie amorose. D'altra parte, lui è nato nello stato di Washington e anche Twin Peaks è nello stato di Washington. E siamo arrivati a un altro pezzo che viene sempre nominato, se non altro perché per la prima volta lui ospita un ospite, un ospite non indifferente per noi, ovvero la bravissima Natalie Mehring in arte Wise Blood, che tra pochi giorni potremo vedere dal vivo al Primavera Sound Festival di Porto. Questo si chiama Sides. Una canzone che appunto si divide in due parti, la prima cantata da Mike, la seconda da Natalie Mehring, dove appunto sides, parti, ovvero opinioni diverse. Il primo verso è come se Mike fosse Alan, suo fidanzato, che gli dice A volte tu ti dimentichi di farmi entrare, dov'è che vai con la testa, ogni tanto mi sento escluso, quindi diciamo un'autocritica di come a volte lui si perda un po' nel suo mondo e sia un po' difficile da raggiungere da parte della persona che poi gli è più vicina in assoluto. Quindi lui dice: a volte appunto sono preso nei miei pensieri e mi capita appunto di trascurare tutto ciò che c'è di reale attorno a me, e non penso che sia molto divertente a volte per Alan. Per un pezzo che è appunto una collaborazione a tre anche con Blake Mills, che ha scritto parte della musica, e arriva la voce di Natalie così antica. Se Mike prende le parti e la voce del suo fidanzato, Natalie esprime la prospettiva di Mike stesso e dice: sì, ultimamente mi sono nascosto, non è facile amarmi, ma taglia il cordone, lasciami libero. Però dice anche: non voglio guardare il mondo che abbiamo costruito crollare, distruggersi, e non è mai troppo tardi per restare. Dopo che tante volte invece si è scelto di abbandonare, di sottrarsi. Perché il fulcro di questo disco è che alla fine è stato ispirato da, e queste sono parole di Mike, dalla noia anche della vita quotidiana, cioè dalle sfide noiose del quotidiano che ti si presentano appunto nell'alzarti ogni giorno, la mattina, cose tipo esserci, essere presenti per l'altra persona e per te stesso, rimanere sobri, pagare l'affitto, pagare il materasso nuovo che hai appena comprato, pulire il vomito del cane o cucinare la cena. Perché quando hai passato grande parte dei tuoi giorni a non credere di meritare una vita normale, è strano svegliarsi un giorno, guardarti attorno, vedere la tua bella casetta e capire che bene o male ce l'hai fatta, sei riuscita a farti una vita, a metterla insieme. E dice: già è da diverso tempo che ho preso delle decisioni buone e mi sono preso cura di me stesso e non ho mandato tutto a puttane e non me ne sono andato e non ho, insomma, ripreso le vecchie brutte abitudini. E ovviamente il bellissimo pezzo che stiamo ascoltando è Wise Blood, Used to Be, tratto dal suo bellissimo album del 2016, di cui qui in trasmissione per diversi motivi abbiamo ascoltato diversi pezzi questi ultimi mesi, Front Row Seat to Earth, e soprattutto i suoi video veramente surreali, pazzeschi, comici. appunto insieme alla, alla vita normale, alla quotidianità, quello che appunto lo confonde e che fornisce il lato, diciamo, ancora inquieto, agitato a questo disco, è come, nonostante tutto, io sento ancora un sacco di ansia e mi sento insomma un po' sparpagliato, diremmo noi, quando invece insomma, se io ci penso un attimo, ho fatto le cose giuste e sto vivendo in modo decente, mi comporto bene con le persone, mi sono comportato da bravo ragazzo per un po', quindi perché non mi sento un bravo ragazzo? E quindi la ricerca di scrollarsi di dosso questa ansia e scrollarsi di dosso tutta la merda che mi dico per buttarmi giù e tutta la merda che il mondo cerca di tirarmi addosso per farmi sentire un po' meno libero. A volte si tratta solo di trattarsi bene, tipo del mangiare in modo giusto, cosa appunto molto importante per lui, il morbo di Crohn di cui soffre. E gli rimane la paura e il terrore che dopo aver risolto tutti i problemi, rimosso tutti i problemi, e quando mi ritrovo magari alla fine da solo con me stesso, sono semplicemente normale e lo trovo terrificante. E quindi fare musica è il modo per Mike di portare la magia e il dramma dentro la vita quotidiana. E finisce Wise Blood le sue quasi disperate storie d'amore, un po' all'antica, però questo amore, infatti c'è l'altro pezzo, diciamo, principale del disco, in cui dice che appunto la passione è tutto nella vita. Ma siamo arrivati a un'altra traccia di No Shape, si chiama Braid. I won't give, say, do it. Sure is a shadow, never quit. Questa, come molte altre canzoni del disco, è un disco di amore, di devozione, di dimostrazione d'amore nei confronti del suo compagno Alan Wiffles. E lui dice: io e Alan ci conosciamo davvero bene, sicuramente più di quanto i nostri genitori o chiunque altro nella nostra vita ci abbia mai conosciuto. È una cosa molto potente e voglio dargli riconoscimento e onore al fatto che io so tutto, che tu sei tutto di me e va bene. E che appunto dice un po' l'opposto di Hood, dove dice: se tu sapessi tutto, tutta la mia storia, tutto il mio passato, magari non avresti voglia di avere a che fare con me. Feel it shaken and set free. Heavens break, make my name lose its meaning. Washed away. e finisce. Braid, un'altra dichiarazione di amore. E questo, che è come l'inizio di Grid, sebbene più lento, è lo stesso tipo di suono. È il suono che Mike ha scelto. Questo pezzo che ora riconoscerete. Can't Help Falling in Love da Elvis Presley a Perfume Genius, una cover commissionata da Prada per la sua nuova campagna di profumo unisex La Femme e l'Homme, uscita nel settembre scorso, a cui ha impresso veramente il suo marchio fantastico. Anche questa collaborazione segna proprio il passato, il passaggio è diventato proprio un darling del mondo della moda. Si presta molto bene come modello. E tornando alle recensioni, questo disco esprime la difficoltà di vivere nel modo giusto, come abbiamo anche detto poco fa, riguardo appunto le dichiarazioni su come sia poi difficile vivere una vita quotidiana quando ti senti, ti hanno detto tutta la vita che sei sbagliato, quando tu a volte vuoi essere sbagliato e a volte quando sai di essere sbagliato. E finisce questa bellissima versione di Can't Help Falling in Love with You. Arriviamo a uno degli ultimi pezzi di questo bellissimo No Shape, ovvero Run Me Through. Qui il riferimento, a me veniva in mente una canzone di Radiohead che forse non esiste, ma molto di più appunto è Talk Talk di Spirit of Eden. Talk Talk in generale, Spirit of Eden, No Shape in generale, perché è molto più sperimentale. Questo pezzo, Run Through Me, Mike dice: in origine volevo scrivere una canzone su come io mi sento attratto da forme tossiche di mascolinità, che mentalmente ovviamente sono opposto a questi archetipi, però sono attraenti, sono eccitanti. Appunto voleva parlare appunto di questo senso di scissione, no? Tra una cosa che psicologicamente razionalmente sai che ti fa schifo e quello che invece ti eccita. E questa canzone è diventata quindi un certo tipo di fantasia un po' dark. Dice: ma non capisco bene perché ho a cuore questa idea, cioè in testa questa idea del venire distrutto da qualcun altro spiritualmente, fisicamente, ma viene spesso fuori. È come, cioè, un po' imbarazzante come canzone, insomma, come tema di una canzone. sebbene il testo possa farmi apparire come sottomesso e passivo, invece c'è molto potere perché è cantato con forza, come se io appunto decido, io sono il regista di tutta la storia. Questo è appunto un altro tassello dell'esplorazione che ha fatto sempre Perfume Genius, della complessità sia personale che politica dell'essere un artista queer, soprattutto in Too Bright. E in No Shape questo discorso continua, si evolve. Ogni canzone è pervasa da, è percorsa questa corrente sotterranea di elegante ma irremovibile ribellione, dice sempre Consequence of Sound. Suono più pieno, opulento, dinamico, sperimentale, ma l'elemento più rilevante e centrale è sempre la voce unica di Mike Edwards. Davy Club dice che è un disco art pop molto vario, sexy e, in mancanza di un termine più adatto, femminile, perché per tutta la sua durata, come abbiamo detto, si può sentire l'influenza di Kate Bush, che sembra diventata l'artista di riferimento per tutti quegli autori che non suonano la chitarra, come per esempio Joanna Newsom, Julia Holter, Zola Jesus, Grimes. Come l'abbiamo annunciato, Spirit of Eden dei Talk Talk dell'88, questo pezzo Inheritance, perché sempre in quel video in cui diceva The Records of My Life veniva nominato per primo questo Spirit of Eden, diceva: io non lo conoscevo, eppure la gente mi diceva di come la mia musica assomigliasse a questo disco, e da quando l'ho scoperto proprio non ho smesso mai di ascoltarlo. Poi tra gli altri dischi fondamentali della sua vita c'è Horses di Patti Smith, che gli hanno detto anche, gli hanno proposto: vuoi farci qualcosa insieme? Ha detto no, non gli dico neanche ciao, per me è un personaggio così sacro e raggiungibile che proprio non voglio avere nessun contatto. Poi I Low, Trust, ma il suo album preferito è Things We Lost in the Fire, siamo d'accordo. Poi c'era anche Winged Victory for the Sullen, Atomos, e come abbiamo già detto e sentito, PJ Harvey, To Bring You My Love. What gets my heart out? What gets my heart out? Comunque è veramente strano, perché tanti articoli che ho trovato di riviste cool come Dazed, W, The Fader, ci sono appunto questi servizi fotografici in cui appunto lui è sempre molto molto esposto fisicamente, quindi è anche strano quando dice: sono molto consapevole del mio aspetto, self-conscious, e sono molto imbarazzato dal mio aspetto perché vorrei non avere questo aspetto. E la cosa strana è che io non lo considero rilevante negli altri, questa cosa riguarda solo me stesso, quindi lo considero una cosa veramente imbarazzante e anche superficiale, vanesia. Eppure ha cominciato appunto ad avere più fiducia in se stessa, anche nel proprio corpo, anche soprattutto con il tour che ha seguito Too Bright, quando me l'ha anche detto. Cioè, boh, mi sentivo un po' in imbarazzo a muovermi così sul palco, però per la prima volta ha deciso di alzarsi dal suo sgabello dietro la tastiera e di essere appunto libero di muoversi, quasi di ballare sul palco. A parte poi le altre recensioni, Pretty Much Amazing 8.3, un disco celebratorio, tutta la musica caratterizzata da un barocco senso del melodramma. Poi Pitchfork 8.8, c'è stato un aumento progressivo da Learning 8.2, poi Go Back into It 8.4, Too Bright 8.5, adesso 8.8, e fa questo paragone con i paradisi queer come lesbo antica sono negli anni 60 il Paradise Garage o i balli delle drag queen, questo disco è come appunto un rifugio, un paradiso queer. C'è anche questo paragone con l'arte, dove d'altra parte voleva essere un pittore, dove Too Bright ricordava appunto i ritratti così contorti di Bacon, No Shape ricorda invece Botticelli. The Line of Best Fit 9. Attraverso adorazione, mal d'amore, meraviglia e disperazione, l'album si batte per il coraggio di sentirsi a proprio agio nel trovare un senso di appagamento nel tessuto del quotidiano. The 405 95 dice che No Shape appunto è la somma di tutto il percorso fatto finora dell'evoluzione, ma anche una distinta progressione, che l'intera estetica del disco, la forza che l'anima è il suono, come canta Mike in Slip Away, Been Carried by the Sound, questo suono che trascina un album che è alla mercé del suono, un album caldo, technicolor, vivo, pieno di luce. Anche un riferimento musicale all'ultimo pezzo che ascolteremo del disco, anche un pezzo importantissimo, riferimento sonoro a Magical Clouds, in effetti è vero. Ed è appunto a questo pezzo di chiusura dell'album, Alan, semplicemente chiamato Alan, una dichiarazione d'amore al suo compagno, dove c'è appunto questa sorpresa, questa quasi incredulità davanti alla serenità, alla stabilità raggiunta. Ti sei accorto che dormiamo tutta la notte? Ti sei accorto che va tutto bene? Che strano, sono qui, che strano. We sleep through the night. Did you notice, babe? Everything's alright. Insomma, questo pezzo, questo disco è il suono di un uomo che ha trovato uno scopo nel creare un'arte che dà potere e consolazione agli altri. È un uomo che ha trovato conforto e appagamento nell'uomo con cui divide la vita. Tutto come abbiamo detto, come tutte le vere e migliori favole, c'è sempre anche il male, ci sono gli spiriti, l'oscurità, sempre in agguato che filtra tra le crepe. Mi piace leggere quest'ultima frase da ultime tre recensioni, 10-10-10. La magia di Perfume Genius sta nel trasformare la lotta e la sofferenza in folklore, nel rendere mitologica la quotidiana sopportazione delle stronzate patriarcali. E lo stesso Alan dice, quando vivi tanti anni in crisis mode, quando sei tossicodipendente, è difficile quasi adattarsi alla normalità. Ma Mike dice, vuole essere il musicista di cui avrebbe avuto bisogno da teenager e credo che ci stia riuscendo. No Shape, Perfume Genius. Ciao da Claudia.